Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. Come abbiamo visto ieri, da tempo gli ordini professionali spingono per l'adozione del cosiddetto fascicolo del fabbricato, cioè una sorta di libretto delle istruzioni che raccolga tutte le informazioni rilevanti, mentre oggi siamo abituati ad acquistare case, appartamenti, dei quali non sappiamo praticamente nulla, dal consumo energetico al materiale spesso di cui sono fatti i muri. Tuttavia, un fascicolo del fabbricato alto una spanna finirebbe per essere di scarsa utilità. Ecco perché, su commissione del CNP, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Laureati, il Politecnico di Milano ha elaborato una metodologia che da un lato aiuta la compilazione di questo fantomatico fascicolo e dall'altro individua pochi indici significativi che permettono quasi a colpo d'occhio una prima valutazione del fabbricato e del suo stato. Ci facciamo spiegare di cosa si tratta dal professor Mario De Iaco del Dipartimento ABC, il Dipartimento del Costruito dell'Ateneo Milanese. Buonasera De Iaco. Buonasera. Allora, senta, la vostra metodologia porta a definire due indici sintetici e poi un terzo che a sua volta è una sintesi di questi due. Questi due indici permettono di valutare da un lato lo stato tecnico dell'edificio, dall'altro diciamo la disponibilità di documentazione. Partiamo da qui. Quali sono quindi i criteri più importanti che avete considerato per mettere appunto questo indice detto di efficienza documentale? Per poter fare un'analisi di questo genere si è deciso di suddividere quindi i documenti in una serie di famiglie, ad esempio, non so, relative alla prevenzione incendi, agli impianti, alle strutture, alla sicurezza, eccetera, eccetera. Sono 8 o 10 in tutto, no, queste famiglie? Sì, sono 9, erano 9 famiglie e quindi ad ognuna di queste si dà anche un peso legato alla necessità o obbligatorietà di questi documenti. L'obbligatorietà è essenzialmente per legge, quindi devo assolutamente avere e conservare questo documento. La necessità è un altro tipo di documento per cui appunto non è obbligatorio il suo mantenimento per legge, ma per la conoscenza dell'edificio, il mantenimento del suo valore, eccetera, è importante magari mantenerlo nel corso del tempo e tenerlo anche aggiornato. Ecco, un esempio su tutti è il famoso certificato antisismico, che non è assolutamente obbligatorio, ma è chiaro che può essere un documento importante, soprattutto in alcune zone. Tra l'altro voi avete tenuto conto di questo aspetto anche geografico nell'attribuire i vari pesi, no, a queste famiglie che dicevamo. Sì, esattamente. I pesi sono legati appunto anche all'importanza dei documenti e appunto per la localizzazione, come nel caso antisismico, o per la localizzazione d'uso, per esempio, per la sicurezza antincendio. La normativa antincendi è diversa se è riferita alla mia villetta piuttosto che a un albergo o a un ufficio. Ecco, alla fine viene fuori un indicatore di efficienza documentale più o meno come è fatto? Sì, si è pensato, dunque, da una parte abbiamo un riferimento percentuale, quindi rispetto alla quantità di documenti che dovrebbero essere presenti si certifica la mancanza con un valore, un numero percentuale. Dall'altra parte si è pensato anche di renderlo evidente graficamente con un grafico a radar, in modo tale che appunto per ogni famiglia c'è una quantità di documenti e ho un'area complessiva che è la minima da raggiungere per essere completamente a posto. Ecco, veniamo al secondo indice a questo punto, che è quello di efficienza tecnica. Quindi voi cercate di capire come è messo l'edificio in termini di stato di conservazione e di prestazioni tecniche. Esatto. Anche in questo caso noi siamo partiti da una scomposizione in famiglie di questi edifici, quindi si sono definite delle unità tecnologiche come le fondazioni, le strutture di elevazione, piuttosto che le murature, quindi le chiusure portanti, piuttosto che no, e a questi, suddividendo poi nei singoli componenti, quindi le travi, i pilastri, piuttosto che le finestre e via dicendo, si sono venute a definire un certo numero di anomalie, anche in questo caso definite come nel caso precedente a seconda della loro gravità. Nel precedente caso era la necessità, in questo caso invece la gravità. Non so, un intonaco che è scolorito è un'anomalia non grave, ma che può essere costosa perché devo ripitturare molti metri quadri di facciata. Lo stesso intonaco che si sta scrostando e sta cadendo ha una... È un'anomalia molto più grave perché, insomma, denota ben altro, evidentemente. Sì, può avere poi dietro altre situazioni. Ecco, quindi per ognuna di queste famiglie avete individuato delle anomalie, ma anche qualcos'altro che ha a che fare invece con la vita utile di tutte queste parti che costituiscono un edificio, no? Esatto, abbiamo considerato anche la vita utile prevedibile per un componente, in quanto io posso avere appunto un componente che ha superato la vita utile e ancora essere in funzionamento, però dovrò porre maggiore attenzione nei suoi riguardi. Un elemento strutturale del Pantheon ha 2000 anni, che ha largamente superato le previsioni di vita utile di un elemento di quel genere, ma comunque sta ancora in piedi, però appunto dovrò porre una maggiore attenzione sui controlli. E anche qui alla fine viene fuori un indice a radar, no? Che tiene conto di soprattutto di quanti, per esempio, elementi hanno superato la vita utile o sono sotto la vita utile, e una percentuale complessiva, no? Esatto, anche in questo caso si ragiona in quel modo, è un radar semplificato perché sono tre punti, elementi che hanno o non hanno superato la vita utile e poi le anomalie presenti. L'edificio nuovo avrebbe quest'area ragionevole al 100%, mentre man mano che si avanza nella vita e si fa o non si fa manutenzione, quest'area si restringe, certo. Va bene, grazie per intanto Mario De Iaco. Prego e arrivederci. Bene, anche per questa sera è tutto, appuntamento come sempre a domani.